poesia. Tito, ti sei appesan... Tito, hai sempre appe. Tito, ma ti sei anche diver... Tito. Tu. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Un saluto da Carmelo Lauricella. E da Laura Faggin. E anche da... E basta, non possiamo fare i saluti finali all'inizio, solo perché così almeno tu credi, speri e pensi che sì, la trasmissione sia quasi finita. Sapevo già l'idea di uscire dall'asilo. E invece no, anzi adesso io ti porto in un bel campo a zappare la terra, perché questo è l'andazzo di quest'anno, lo sai? Un milione di bambini quest'anno imparerà come si coltiva la terra. Questa iniziativa di Coldiretti, di cui abbiamo già anche parlato nella prima edizione, è andata a buon fine. Oh. Quindi campi per chi va a scuola in campagna. Torniamo ai campi. E serre per chi va a scuola in città. Ma per tutti l'insostituibile esperienza di far crescere un frutto, un ortaggio, poi mangiarselo e dire questo è il mio pomodoro, questa è la mia mela. Capito? Guarda che il ritorno ai campi, no? È la triste costante della storia dell'umanità, quella più triste, no? Perché? Perché allora penso un attimo, prima l'ha fatto Mao. Sì, è vero. Lì, cioè allegria proprio, vuol dire massimo rispetto, però allegria poca. Allegria, poi l'ha fatto Pol Pot. Lui come... Adesso lo fa la nostra pubblica istruzione, Drago. Cioè, questa quindi iniziativa, guarda, Kappa, che andava presa anni e anni fa. Ai tempi di Mao. No, quando abbiamo cominciato a capire che ci sono bambini che non riuscivano a vedere il nesso tra le patatine del McDonald's, quelle tutte a fettine che se ne mangiano croccanti, e la patata invece come tubero che cresce nella terra. Ecco quando è venuta fuori questa esigenza. Vuol dire, i bambini americani, per esempio, non riconoscono neanche l'icona di Gesù Cristo confrontata a quella di George Bush. Cosa vuol dire? Che devi fare catechismo? Ma no, vabbè, ma questo quello che mangi, Kappa, cosa c'entra George Bush? Non lo so, Bush? Però Gesù Cristo. Non c'è, non lo so, non so. Beh, allora, qui siamo siamo aperti ai collegamenti più coraggiosi, ah, no? Dai, comunque, vabbè, ritorno comunque, ai campi. So solo che io, Drago, molti miei coetanei milanesi hanno mollato la carriera, la loro vita da cittadini milanesi, così per mettersi a fare i contadini. E allora, vedi che tornano ai campi così spontaneamente. Però nessuno sapeva come si faceva, per cui sono finiti tutti male. E allora, sono tornati dalla mamma, mi dai i soldi. Ho fatto un disastro, hai capito? Grazie a queste lezioni a scuola, quindi i prossimi che vorranno dare una svolta rurale alle loro vite di plastica potranno farlo con cognizione di causa, no? Quindi niente mamma, niente prestiti. E ora, bambini, ricreazione! Vabbè, ma un tasto per volta, scusa. Almeno hai capito cos'è? Ma no, ma cos'è questa? Una cosa folk. È l'inno nazionale polacco. Ma cosa ne sa? Ma, che, ma non polacco. È così l'inno nazionale polacco, tra assolutamente. Dai, ma figurati. Tomaszewski. Non è così. Bambino Alberto. Questo qui era l'inno polacco. Polacco, ma è vero. Questo è un caso. Perché è un caso? Una coincidenza. Di che genere? Di cosa stai parlando? Allora, chi lui sta suonando l'inno polacco. Mica siamo in Polonia. No, ma io adesso devo raccontarvi una cosa che riguarda la Polonia, perché sono stato in Polonia. Ma non c'era già stato una volta un weekend terrificante? Varsavia, sempre in macchina. No, ma qui lì con i miei genitori. Questa volta, siccome ho passato l'estate a rompere le scatole ai miei genitori, ti accontentiamo subito. Loro sono soci di un'associazione, Amicizia Italia-Polonia, che è del 64, è stata fondata adesso ancora. Quando ancora c'era. E fanno questi scambi culturali, socioculturali. E quindi mi hanno mandato a fare, ha fatto il bambino alla pari in Polonia. Beh, come il bambino alla pari? Beh, in Polonia così hai imparato. Cioè, mi hanno mandato, c'è stato uno scambio. Io, bambino italiano, sono andato in una famiglia polacca. E il bambino polacco è venuto con i miei genitori. Non è che hanno mandato una ragazza polacca di 18 anni perché tuo padre l'ha richiesto apposta. No, no, vabbè, è una bambina. No, okay, vabbè, un bambino. Parietà. Ah, ok, va bene. Parietali. Questo è molto divertente. Quindi. La mattina mi ha detto, allora, stanotte parti? Di notte perché? Tu non ti preoccupare, vai a dormire presto che ti svegliamo. Vabbè, sempre il terrorismo. Sì, vabbè. Allora, vabbè, mi svegliano notte. Verso le 2 di notte, tutto imbabolato, porto in macchina. Andiamo a Cascina Gobba alle 3. Perché da lì, settimanalmente, partono dei pulmini semi-abusivi. Sì. Semi, Sì. Da 8-10 persone che fanno i viaggi in Polonia, in Ucraina, in Bielorussia. Partono da lì. Tutti da Cascina Gobba. E costa poco, Insomma, siamo andati a questo viaggio interminabile. Beh, e siamo andati a Cracovia. Cracovia, la città di... del Papa. Bravo, ecco, vedo cosa. È un Papa, no? Sì, un Papa che. Quello si era... prima. Via, ma non a Cracovia. Attaccata a Cracovia c'è una cittadina Nova Huta si chiama. Nova Huta. Nova Huta. Che è una cittadina modello del comunismo. Negli anni 50 ha detto, costruiamo la città modello del socialismo. Enorme, 40.000 abitanti, tutti lavoravano in acciaieria. Tutti. Tutti costruzioni grigie, marmo, la statua di Lenin. C'era la statua di Lenin, eh? E adesso non c'è più. Ah, no. Ecco. Per noi turisti, questi qui dello scambio italo-polacco, ci fanno vedere una foto quando c'era. Ma non potevano lasciarla? E no, l'hanno buttata giù a bombarda. E quindi io sono andato in una famiglia polacca. Bello, lì. In questa specie di ghetto, Nova Huta. Abitavi lì proprio? Abitavo lì. Mio padre polacco, diciamo. Sì. Lavorava in acciaierie. Ma sono ancora aperte le acciaierie? Sì, sì. Va meno gente, ma sono ancora aperte. Ma tu come bambino alla pari vuol dire che lavoravi in casa? Cosa no, facevi? Lavoravo, facevo quello che avrebbe fatto il bambino polacco. Cioè? Quindi, siccome anche la madre lavorava, di giorno non potevano lasciarmi da solo. E quindi andavo in acciaieria anch'io. Come? E facevo i turni come lui. Il periodo che sono stato io lì incominciava alle 10 di sera e finiva alle 7 di mattina. E quindi chi mi teneva? Perché la madre fa i turni in ospedale. Quindi facevo i turni in acciaieria anch'io, no? Ma quindi come? Mi preparavo il panino con la ringa e il burro salato. Ma sei un bambino, c'è? Non puoi lavorare. Ma scusa, mangiava poco. No, ma io stavo in un cantuccio, non è che lavoravo. Ma cosa faceva l'acciaio? Cioè l'acciaio? L'acciaio fa l'acciaio per le macchine. Macchine? Tipo la Panda, perché in Polonia fanno le macchine. E quindi c'è Marchionne. C'entra Marchionne. Hai lavorato per Marchionne. Ma non fantastico. È che devi cercare adesso di citare Marchionne perché siamo su Radio 24, News and Talk, l'economia, la Fiat. Sempre così tu a fare. Ma, no, ma lui comunque... non sa niente, la Panda gli piace, le macchine, capito? Marchionne. E la Panda? Che poi, quello che mi preme dire, questa storia del bambino alla pari non è stata una cosa tanto alla pari. Perché? Ma come? Allora io sono andato in Polonia, a Cracovia, non a Cracovia, in una cittadella mineraria. Nova Huta, no? A Nova Huta? La cittadella comunista. Sono andato in acciaieria tutti i giorni. Sì. Ci ho messo 3 giorni e mezzo col pulmino andare e 4 per tornare perché lì c'era stato un problema che poi non stavo più a dire. Vabbè. Il bambino polacco è venuto in aereo, pagato dai miei genitori, in aereo, rinate, tatatac, veniamo a prenderti, partiamo direttamente per il mare. Ma... In aereo è venuto? Sì, sì, sono andati ai Tremiti. Ma... Un posto bellissimo. Ho fatto la vacanza che io non mi ha mai portata così. Noi andiamo a Varigotti 2 giorni e poi dopo... adesso basta, torniamo a casa. No, lì, alle Tremiti. Tremiti, villaggio. Questo qui ha detto... Cacchio, allora è vero che il capitalismo... è perché i miei ingegni di questo qui dobbiamo farlo star bene. E hanno fatto la vacanza da capitalista. Quella che io aspetto da anni! E invece sono stato in acciaieria! E qui... Allora qui chi protestava allora? Quelli lì che hanno buttato giù la statua di Lenin. Allora c'aveva ragione. E qui invece perché i miei... Pontifica Michele! E sta lì a pontificare. Perché sì, quel socialismo, l'uguaglianza. Ma quale uguaglianza? Se io sono in acciaieria e lui sta a sala giochi del villaggio. Il bambino polacco. Ecco, il bambino dello scambio socioculturale. Avete capito? Ma c'è nessuno, non c'è più andato. Allora! E c'è rimasto anche solo anche qua. Kappa! Ed è Kappa e no. Drago! E non c'era che Drago. E qui come il bugigato dell'acciaieria. Che io chiamavo. E questi mi guardavano, ma intanto non capivano. Erano polacchi. Sì, chiediamo in levare, nel senso che ci leviamo proprio. Vabbè, lasciate le vostre bambinate, anche le più macabre, allo 02 46 52 44 95. Il bambino Alberto risponderà e voi dovete fare quello che sapete. A domani. Oh, basta.